Mari. Suca. E ma. E Femone. Cassamone. E Lu. Mi senti Lu? E Lu. Ma cosa ne capisce Graziano di Frugge? Cosa ne capisce? Cosa? Magna di un morso. Andiamo. Cosa ha modificato? Ma cosa ne capisce Graziano? No, gli ho mandato un video, mi aprilo che te l'ho mandato anche a te. Aspetta. Una cannonata. Sì, come l'ha attaccata? Sì, vabbè, adesso ho appoggiato un bastoncino, Però capito. È troppo morbida per tenersi da sola. Comunque funziona. Non mi senti? Sì, sì. Sì. E Graziano che non è capisce niente. Cuffo, non parli no adesso, non parli. Produsa. Cuffo, non mi senti? È bello. Ti ascolto bene io. Oggi l'hai fatta. Cosa? Oggi l'hai fatta con l'antenna. Sì, poco fa. Capivo cosa fa. Mi stavo così annoiando. Allora mi sono messo a farlo. Produsa. E lui? Andiamo a andiamo. Catta. E lui? Attento, catta. Ehi, sta fatto avanzura, Porca paletta. Posso andare a casa tua. Mia barriata. A grandinato mi sembra anche. Andiamo. Andiamo. E lui? Attento, gufo, male ci sei rimasto. Ma cosa ne capisce gufo di questi progetti? Produsa. Attento, gufo triste. E lui. Oh, Lu. Sì, cosa dice la puliamo l'antenna? Se l'ha appoggiata sul tavolo di sala dalla parte della TV. Cosa? Se l'ha appoggiata sulla parte sul tavolo sulla sala della TV. Io non ti sento, Lubu. Aspetta, che ce ne stavo parlando lontano. Dimmi. Cosa? No, non so. Ma siamo molto avvicinati alla radio, non ti sento. Graziano, mi ha mandato un video. E beh? Maestro, ti piace questa antenna, antepo caccioni? Graziano, ci sei. Dillo di entrare. Attenta, cuffetta. Graziano, bucaccioni. Graziano, cosa mi bacca? Guarda, cuffetta, sì. Attenta, cuffa. Oh, Luca. Ehi. Oh, Lu. Dimmi. A me non me la costruisci un'antenna così, no? Di quelle esterne. Ah, di queste? È una tipo quella, visto che è fatta di più, dai. Devo fare delle prove, adesso se entra Pomponio. Vediamo un po'. Lui. Luca! Lui! E Mary! Che due così rende poi, E Gaggio Maria. E allora, mi ha mandato una foto con due boi, più o meno mi sono cascati dai 4 ai 5 kg l'uno. Picchiata. E beh. Vanamarchi. Lui. E beh, cosa state facendo? Stavo facendo cosa al computer, bravo. Sentendomi sei, grazie. Luca, ti sento male a tratti, come mai? Ma cosa a tratti? A tratti sei tu. Prova! Ma se mi sente bene anche Luca. Adesso ti sento bene, ma poco fa ti sentiva a pizzi. Ma cosa c'hai quella specie di antenna con tutti i civili? A chi non ti piazzi? Adesso già sta uscendo bene. Ma c'è troppi fili in mezzo ai piedi. Cosa oggi questo? Due fili di ramo, un filo unito, tutto arrotolato. Tre fili, va. Oh, grazie, ma la vuoi andare a mangiare via? L'antenna la vuoi andare a mangiare via? Non ho capito, parla più piano. L'antenna, vista quella di Luca come d'angia mia. E quella di Luca quale, però? Quella che mi ha mandato in fotografia, quella. Sì, allora. Beh, io aggiungo, invece di filo di RAM è un filo arrotolato di cavetto d'antenna, attaccato. E quella è. Ehi. Ed è un'antenna, il cazzo, non l'hai buttato, ti ha preso tutta questa roba. E lui di più che quanti anni ha io. Ehi, se sei Luca, anche Luca c'ha così. Ehi, ma... paghi ciò che costa. Vai uno stilo tra radialine e sei a puto. Ma non me la metto la mia bagaglia. E non ce l'ho io attaccato. Come l'hai fatto? Non andiamo a grazia con quella di Luca? No, mi l'ha giocuprata una cazzata. Adesso non mi ricordo la verità quanto l'ho pagata. Ma mi sembra, non mi ricordo il prezzo. Una fesseria. Allora lui non è precisa la mia. No, lui non è così. Tu l'hai fatto un tangiare e uguale alla mia. Allù. E io. E che io devo stare a attaccare un video, capito? Cioè, per portatile non attacca l'antenna esterna. Per usare l'antenna, quell'altra uso quell'altra radietto, quella a base, là. Capito mi hai? E lù. Col portatile c'ho l'antenna sulla dotazione, quella fine che la bici giusta. Cos'è? Quanto il palmo della mano. Ah, perché? Sì, ahia. Grazie. Vabbè, che l'antenna sua funziona bene, dai, non è che non è male. A voi la mazza, volendo usare quell'antenna là, mi compro l'adattatore che ha vinto qua il portatile, poi attacco il cavetto dell'antenna esterna, posso usare anche il cavetto dell'antenna esterna con il portatile. Che non lo so se ce l'ho, ma mi pare di no. L'adattatore devo comprare, se non ce l'ho, gira a me, me lo ordino. Un adattatore per questo portatile, se no me lo compro. La rovendere da fusare. Comunque se trovate a fusare o nel PD4, Ehi, un adattatore piccolino per questa radio, se cazzo costerà 3 euro. Cioè lo so che se da internet ti costa 1 euro, 1,50 euro, e tu trovate a pagare 3 euro. Vabbè, tanto ma se non me guardo, sì, volendo attacco il cavetto dell'antenna esterna anche qua, ma già funziona bene così. Così già che tu non l'attacco quasi mai, se fosse una cosa del genere, allora non attacco più di l'altro. A che tratto sempre io, perché malefitto mi hai, Luca, e beh, oggi non sei andata a mangiare al circolo. Luca! Manicomio! Caruto sì! Ehi! E dove sei caruto? Da! E me! E allora cosa si dice? Cosa si dice? Ehi! Tu cosa dici? Niente, oggi niente arrosto! Luca arrostito è flipper oggi! No, oggi no! Oggi al forno. E Maro, già è buono. Hai fatto la gnaia al forno? Eia, no, la metà solo lui, scatta, se no. Sì, hai cucitura, giuro. E allora, no, tutta no. Luca, tutte e due l'ho mandato. Fatta arrosto in pinetta, nel boschetto. Ho capito, stava parlando Luca, grazie. Cosa ha detto lui? Che ne ho fatto la metà solo, perché era troppo, capito? No, era troppo. No, capito, già mi? Sì. Lo pesava? Poi era grosso e pesava anche. Lo pesa Graziano? Sì, lui. Sì, lui. Sì, che cosa? Aspetta che giro le patate. E gira le palle. Tutto buco, fallo caro. Cosa ci le patate, perché le patate hai messo? La carne senza le patate attorno, gatta, al forno. Hai pigliato la manco. Grazie, cosa hai mangiato a pranzo? Cosa hai mangiato? Oggi ho mangiato fettina impanata, poi ho mangiato favette, poi ho mangiato rollata di pollo e poi mi ho mangiato, per primo mi ho mangiato un bel piatto di pasta e fagioli, poi la fettina impanata, poi le favette in verde, aglio, prosciutto, peperoncino, polenta, ma vai dadu, e mi ha già bella della dadu, dammi chi sa arrollata, e mi ha dato pure la arrollata. Che la glicemia, mamma aveva sempre alta, ho sempre 200, 200 e più. L'ultima volta, quanti ieri mi sa, 268. Beh, la glicemia stamattina ce l'avevo, 186, quando mi sono bisato da Luigi. Perché mi ho mangiato due caramelle alla menta durante la notte quando mi sono svegliato. Mi sono cucinato due o tre buchi, due o tre me ne ho mangiato. Caramelle alla menta, 30 minuti. Perché io dormo e sviglio, no? Mi dormo un po' e poi mi sviglio. Poi, stamattina mi sono svegliato, adesso te ne ho un quarto, ma un pizza. Ma ho misurato, ce l'avevo 186 o 189, e va bene. Ho fatto colazione e tutto, prima di pranzo ce l'avevo 216, perché mi ho preso due caffè, uno con la macchinetta e uno della caffettiera. Ho capito, vabbè. Però siete mai bugiardi voi diabetici. Ieri notte mi aveva più di 300, ma che mi mangiato 6 o 7 caramelle, due morbide con lo zucchero, due, un'arancia, un limone, sorvecenti, quelle ripiene che fanno frizzi, fanno. Poi mi ho mangiato quella, la frutta. 4-5 pezzi di cioccolato, di quel cioccolato fondente, mentre mi stavo guardando la TV, no? E poi niente, e ce l'avevo così alta, allora mi ho fatto l'insulina, me ne ho fatto 15 cc. Vabbè, ma sti fauraggi però, fauraggi, perché la glicemia, tu mi dici, non ho mangiato niente, non ha gusti. Capito. Però ho notato, uno sta prendendo queste pastiglie per la pressione, cioè anche la pressione alta, saranno quelle? Anche le pastiglie per la pressione già te la alzano, la glicemia. Vabbè, io perché a parte sto prendendo tre cortisoni, due pastiglie e più il disco giù che lo aspiro, che è a base di cortisone. Adesso domani le prendo per domani quel cortisone e poi mi rimane solo il cortisone nel discus, quello che aspiri. Io a volte al giorno una aspirata la mattina e una aspirata la sera prima di coricare. Lì c'è il cortisone, perché il cortisone ti alza la glicemia, capi? E una volta che non prendo la pastiglia, quella al cortisone, mi dovrebbe tornare come prima, capito? Vabbè, già prendo questo cortisone, poi ti voglio mangiare pasticci, va. Pasticci, cosa voglio? La base di me la TV. L'altra notte mi ho mangiato anche un gelato, un cornetto. E quando vai che stanno a mangiare, tu trovi qualcosa a casa tua? Sei mio! Si mi fa che mangiavi le dozze, no? Solo che cerco di evitarli, là. Anche due cioccolatini con la ciliegia dentro mi ho mangiato. Lo fai come Luca a fare. Al coso, a cosa giovici? Al brindisi, buh! Che se mangia carne, mangia mia, io ti la sai che c'è mia. No, domani sono più per si fa arrosto. Ci sono capocollo, pancetta, milinzani, quelle nere e viola e anche quelle nere, cioè le melanzane. Ma sai che la giubbata Maria Zalbiti, Luca, buona rita era, una non me l'ho mangiata, ma non ho mangiato la metà. Ma lo sai che sta pulita? Agli è prezzemolo mi. Oh yeah! Buone sì, va bene. Ha detto, beh, fammi la mangio. Un pezzo, dato, ma non è spesso che le mangio io. No, io. Già mi piace, però non è che le mangio spesso. Una volta ogni tanto già me la mangio. La metà e già mi è piaciuta. Però se ti fa oraggio inutile. Luca mi specialmente diabetico come si mangia pure giubilato. Ma io sono ripiglia più. Oh, anche Gian Maria mi lo sento, non te ne dici virità sulla glicemia mi. C'è poco l'onfio. Vabbè. Ma dite voi. Una voce azzurro si gamba a me, Luca. Cosa vuoi che ti dica? Ho capito, ma se non puoi fare, non puoi fare. Lo so che si gamba. Se ti vuoi continuare a cioè continuare a vivere, devi fare una vita più sana. No, mangiare pasticci, caramelli, cioccolati, patatini, merendini. Grazie a una, boh! Ma che poi, chi dice che non mangia nulla? Se non l'abbiamo invitata qua, ci mangia pure a noi. Sì, in cucina, cosa vuoi? Boh, io conosco un barietto che non mangia nulla se mangia una pozione pilata, però ne conosco anche gente per dire che questo amico mio che è morto. Chi non fumava, no, non beveva, mangiava a me. E morto di tumore ora. E come mai? Non fumava, non beveva. Mangiava solo questa, mangiava a me. Vabbè, il tumore alla gola lo puoi prendere anche dall'aria, capito? Da quello che mangi. Lo so. Dipende da quello che mangi. La sigaretta non fumava, non beveva detto. No. Vabbè, magari era, non so, purtroppo se devi venire ti viene, inutile. No, già mangiava così buoni, non ti preoccupare, già era di chi, se non ne mangiava bucarino. Cosa sana mangiava, roba buona, non ne mangiava di bucari. Sì, carne arrosto, cioga, cucui, tutta roba buona, liquida. Ma adesso non ne mangiava gli scaudulai. Però vedi, purtroppo è così, ha fatto andare in pensione e farne lì sul radio. La liquidazione si è aggiungata che è andata a Milano a operarsi e tutto. Non è morto, no, che è morto ormai a Milano. Si ha speso tutti i soldi per curarsi a Milano. E cosa ne ha ottenuto? Ne è tornato morto. I soldi della liquidazione di lavoro. Vabbè, ma quanti anni aveva questo qua? Oh, Dio, mi ha solo chiesto a Paoletta. 67 anni, perché era questo tipo, è parente di mia moglie. Ha fatto andare in pensione e fare i surraglio da bere un paio di mesi. L'hanno visitato qua, controllato qua, però lui qua non si voleva far operare, è salito a Milano che c'era quel dottore bravo che è morto adesso. L'ha operato qui, se ne è morto rumato in seguito. E non so quanti di là pagato a pagamento, tutta la liquidazione, di lavoro di 40 anni, un bel di là, mi pare 70.000 euro, una cosa del genere. Vabbè. Comunque ci ha provato, pazienza, vuol dire che era come si dice, ormai era irrecuperabile. E gli sta facendo un mese passato con la moglie e i figlioli, ci avevano un appartamento in affitto, a vedere ci sono usciti di là, e poi per cosa? Per niente, perché poi a morte hanno dovuto imparare a purare i carnirai, no? Un sacco di soldi. Grazie, purtroppo era troppo tardi, se ne è accorto troppo tardi. No, lui si è accorto perché è andato dal dentista a aggiustarsi tutta la bocca, gli hanno rifatto tutta la dentiera quando ha finito il lavoro, no? Ed era sempre un dolore di mascella, andati a dare un dentista, gli va via la panoramica, diceva qua è tutto a posto, lei deve andare a farsi un'altra visita, non so che visita. Insomma, l'hanno fatto un'altra visita, a bocca, tutto, l'altra contro l'altra, eccetera, eccetera. E gli hanno riscontrato che va via un tumore, la mascella e la gola. Ecco, e lì, la sempre a mal di... Ah, e la lingua pure gli aveva pizzicato. L'hanno va via 60, mi hai detto. 63, no, 66, 67, un'età così. Ma era giovane, ogni mezzo d'ombo, era bello robustello e alto anche. Bello piazzato, ma con una ruga va via. Di sazza di questo, sì. E abitava qui più giù di me, ma Marina mi sa che magari lo conosceva pure. È il marito di una mia parente, della zia di Paoletta, di mia moglie. Ho capito. Aggiungami. Vabbè, vuol dire che... Vuol dire doveva andare così, grazie. Ma per dire, no. E non solo lui, no. Ne ho conosciuto tanti altri. La stessa cosa, né fumavano, né bisiani, eppure non molti gusti. Cosa vuoi dire? Insomma, una accusa all'altra, vivo, sia di muri muri lo mattese. Non ci sono scuse che tengono. Lo so, grazie. Purtroppo quando la cosa viene presa in ritardo, è gaiso conto. Solo che comunque anche il diabete è una brutta bestia. Il diabete a mamma se l'ha puttato sotto terra. Cazzo, la gente di diabete si è ammalata al cuore. Vabbè, le mie americane ce l'aveva già. Poi c'aveva quel disturbo che ho io all'intestino, il morbo di Crohn. Insomma, rimanendo che faccio io via mamma. Mamma è morta a 52 anni. Perché all'intestino gli hanno fatto l'intervento e c'è rimasta sotto. C'è rimasta secca, giù con questo. Vabbè. E anche mamma non via, andiamo a medicare. Diabete, ha avuto un tumore al seno. C'hai pacemaker, altro voi. Basta che sempre dica, vabbè, un po' già va meglio. La pressione era sempre in ruga, era. La minima, la massima sempre alta. No, io mi ha fatto comprare il medico, la macchinetta e la pressione me la controllo la mattina, a pranzo e la notte. La pressione di tutto il corpo e la pressione sanguigna dell'ossigeno. Cioè la macchinetta me la misuro 3 volte al giorno. E questi giorni la pressione, per esempio, arteriosa, quella della circolazione del sangue che va al cuore, ce l'ho sempre 97, 98, qualche volta 100, l'altra di fila via 60 perché stavo facendo, mi sono mosso un po' ed ero a farlo. Me l'ho misurata fila via 60, perché mi viene l'affanno, no? E allora mi sono bussato. Dopo di una mezz'ora me l'ho ricontrollata ed era già risalita, capito? Lo so, ogni tanto diceva bene mangiarsi qualche dolcino, ma ogni tanto. Io non so quello che fa mamma, dice che lei non mangia niente, poco vi credo, poi i condimenti prima erano La cicloreste mangiava quasi insipido. Ah, ma se la mangiava, la salima ha fatto la buonissima, La pasta in cecci, e la salita che la muglia. Ma sa, ma è da usare, tanto si è importanti. Cioè, nel senso che li fa male, troppo sale li fa male, l'ha detto il medico. A me già mi piace, per esempio, i bumatti con lo sale, non voglio sentire proprio il sapore del sale. Ma non è sempre che lo faccio, no? Se mi barro una bumata, gli metto un pizzico di sale, intanto è giusto, va? Qualche volta che ho esagerato, da qui già si vede che ha esagerato quando si misuri la glicemia, ma se no me ne metto un po'. E se no già così non mi piacciono i pomodori crudi, con un po' di sale sono buonissimi. Ci metti un po' di sale, in barro un panino, ci metti un paio di foglie di basilico e poi ci metti 2-3 fette di mortadella, sarri la boccaccia, ha un poco di ghiacci sopra e ti lo mangi. Vabbè, ma lei deve evitare roba salata, capito? Sale meno ne usa meglio è. Poi zuccheri, il latte, prima se ne mangia una mezza tazza, se ne mangia un tazzone pieno, lo fa proprio a bocca, piena a bocca con fette biscottate. Non va bene Graziana, poi arrivo ingrassato, la glicemia sua era bella, 120, 130, 110, molte volte era 100, perfetta. E adesso cazzo quasi 300, vedi un po', si sta comportando male secondo te? Il latte è grasso, dipende anche dal latte che si mangia lì. Se è chi che fa di Eva, quello fa schifo, io già non ne mangio, non ne posso mangiare né di chi su senza grasso né di chi giù normale. Però il latte è grasso, fa male qua, ti fa di burro ingrassare il latte. No, io mi prendo il tè, buh. Il tè 2 fette biscottate, mi, qualche volta 3.000 fette biscottate, però gli metto quella, cioè la marmellata, quella normale, che non c'ha zuccheri, che è pareggiabile, gli è buona armata e se oramai faccio fatto la bocca, senza zuccheri, E già si farà la stessa, per non bagnarmelo così mi la fetta biscottata. Ma lì cosa da fare? Fa colazione, tipo le 5, 5 e mezza, le 6, poi alle 4 mi diburti. Molte volte è capitato che io che devo andare in bagno, tipo le luna così, sei bene, faccio fammi. Allora io ti fanno i cellulari, dato padre rulatti. E da poi dice, ma non già non li mangio, e se la mangia a luna, che poi appena si sveglia, tipo le 7, 6 e mezza, 7, 8, se ne faccio una tardazza. No, io la mattina che mi alzo, nel frattempo che sta salendo mezzo la caffettiera e il pergamino, per il tè ci metto il limone dentro, in quel frattempo che sta a salire la caffettiera a bollire l'acqua per mettere la bustina del tè, mi faccio l'insulina, mi misuro la glicemia e tutto. Pozzo finendomi l'insulina e insulendo la caffettina. Poi mi metto un po' di caffè con un cucchiaino piccolo di zucchero e mi rubico. Poi mi guardo la TV, lascio raffreddare un po' il tè, anche se i budelli non li mangio. Lo lascio raffreddare e lo metto nella chicchera. Quando è tiepido, mi mangio 2 o 3 fette di fette biscottate con un po' di quella marmellata e dopo mi prendo tutte le pastiglie e me le bevo col tè, no? E niente, e sino alla una non tocco niente, sino alla una non ho mangiato la sera e qualche volta mi mangio qualche pezzo di dolce, ma proprio se lo vedo, se no non me ne frega, ce l'ho qua e luce, se no non ne cerco neanche, però allora, chiedamene un pezzo, ma l'età già la fa la merenda la sera. Ah, il caffè mi bevo dopo pranzo, verso le 3:30, 4, là, così. Anche qualche volta lì, 4:30, le 5, là, dipende. E niente, me lo faccio nella macchinetta o mi posso una caffettina, o uno o l'altro. E poi sino alla notte poi non c'ero, poi certe volte la notte mi faccio il tè. capito che vi viene fame, ma caro. Ripeto, le sue ricevie erano belle, belle, belle. Quello mi conosceva. Tipo 150 mi incazzavo. Perché c'erano sempre belle, 110, 120, 130, 135, così. Quello c'era 150, 160, 170, se no tu mi incazzavo. Ma via, 200 in più. E vabbè, comunque. È un casino, grazie. Io non posso, cosa faccio? Io gli ho detto che se poi torna l'insulina io non ho tempo. Ehi, la fai vedere come si fa, sai, Bivu? Se la fa da sola, non è Bivu, un diploma. E beh. Adesso qua c'è la zia di mia moglie che abita qua a fianco. Quando non c'è il figlio chiama mia figlia, fagli l'insulina o chiama me, anzi vuoi che me la giubbata mi dice. No, mi dici non per vederci, non vi so cuore, gliel'ho fatta io oggi per dire. E non c'è la mia figlia, quando non c'è lei gliela faccio pure, volte e volte gliela fa mia nipote, sale gliela fa, capito? Oh, il lumezzo di la sera è per un figlio, per il padre un figlio. Però io gli ho fatto vedere un sacco di volte come si fa, Dardisi non vorrei dire, vabbè aiuto, e gliela faccio sempre, no? Ehi vabbè grazie, magari tu non esci, c'è poco, gliela puoi anche fare, ma io non ho un lavoro da fare, come faccio? Cioè io sono stato un anno, un incubo era, un incubo, dovevo stare a casa, cioè preparargli un pranzo, preparare la cena, preparare l'insulina, cioè un anno da incubo qua. Chi c'è sempre giù la mia, che un figliolo non fa mai, se ci rimangono a cui la nuti, a chi anda a fare volantinaggio, guida il furgone più porta i volantini, no, e porta anche gli altri. Dunque tu te la dino per un figliolo, rimane sola e ha ragione, va 80 anni. E cosa va? Pure se gliel'ho fatto bene come si fa, non ci riesce. E dunque c'è mamma a fa figlia, capito? O se c'è mia figlia gliela fa mia figlia. E è un casino, e io la dico, ma è una cazzata mia, vai, fai così, così. E mi dice, no, non vi so buona, non vi vengo, tutti i cigoni. E manco ci provo a farsela. Dimmi, cosa ne so? Mamma la madre si goce, non ce la fa a farsela. Manca a prepararsi, manca a mettere l'acqua, gli ho fatto vedere, nulla, non ci riesce. Vabbè, dimmi, va a paura o stai in maglia. Chi c'ha sicuramente è così. A chi la dice, boh, se lo dico, ah, non vai subito in un minore di vecchio, sì, se non posso stare, non posso vedere, ti la faccio dentro. Quando è così, io a mamma, quando c'era mia madre, mica era così pure bella, che una cazzata, dove butti la siringa, c'aveva quell'affare in acciaio, lo mettevo l'acqua, ci mettevo la siringa dentro, la facevo bollire, poi nella levavo, la raffreddavo, la lasciavo raffreddare, e gli preparavo l'insulina con le fialette, tagliavo il beccuccio, prendevo la fialetta, noi era così, no, quando io a mia madre non gliele facevo, era bella siringa, cazzo, Maria, un fusili di cantinamanna. Prima era tipo l'insulina, tipo la, come si chiama, la siringa quella che usano tu, si tira con l'ago grande. Prima non era cuscino, adesso è tutto diverso, prima dovevi mettere a bollire la siringa con l'ago, c'aveva tutta la trattatura adatta, no? Prendere le fialette, prima c'erano le fialette, tagliare il beccuccio una volta che era fredda la siringa, aspirare il contenuto, miscelarlo con un altro contenuto, mettere quel totto di gradi dell'altro contenuto, di così. E noi la cucino, eppure gliel'ho sempre fatta io, la buona anima di mia madre. Ho il braccio, ho in panza, ho la goccia, E la vitamina di lipidi, mamma, a fuga di insulini, specialmente in panza. Lo so, grazie, vabbè. Comunque mi sono passato un anno brutto. Ma non hai ti metto fra di tu, casa da tua madre. Ma non fa zia nuda, va bene, spendi da tutti. Quando oggi portate un onesco e... come si dice, te la fa lui. Se non ti piazza io. Allora se c'è lui più piccolo di te, gliela fa lui, sei in casa. Cazzo, noi gli paghi un grado, no? Ma sì, noi dobbiamo fare, se c'è un travaglio, dobbiamo tra di fuori che avete avanti. È quello, capito? E allora la dovete convincere a guardare come si fa tutte le volte che gliela fai o tu o tuo fratello e vi lo dico. E poi ho conto che io non bisogno che sono con travaglieri che travaglio, ma buona sta. Guardalo, in caso che non ci siamo te la fai tu. E se ci siamo noi te la facciamo noi, però tu guarda sempre come si fa. Così tu gliela devi far fare secondo me. Davanti a te, lì ci piglia la siringa, carica, metti quanto devi mettere e gliela devi fare così, se no lei non ci prova neanche. Capito? Ma non ce la vuole fare, grazie. Ma tu devi insistere, dici l'altro di bozzo, tu va, pigli la siringa, te la ci fatto vedere come ci si fa, se lo pigli la siringa in mano e ti avvicinare il braccio, le fai mi tetti, bugnechi, cieco, prima metti, quanto è? 6, 8, ecco. Manuzza, che tu mi dici, altro non se ne fa. Mi anda da me figliura, va a farle di su, anche un figliolo non è rientrato ancora, cosa da giù? Ma secondo me gli devi dire così, e fa un conto che io non penso che sono travagliente, non c'è neanche tuo fratello. Catti la base, non te ne va in sulina. Ma così sta cattando in terra, così gli devi dire tu. Ma quando io gli lavo un po' il cervello, glielo dico che la glicemia è alta, tipo se ce l'ha a 200 che non ha mangiato niente, lì all'attimo si spaventa, ma poi mi manda a quel paese. So tutti fateli così, anche pure lui, siamo le voci, quando le misuro la glicemia è virata e gli dico, cazzo, ti metti qui una mangiata nuda, come ti mai per la glicemia a 280? Vuol dire che hai mangiato, no, non hai mangiato, e vabbè, se hai mangiato e poi ci batte, se non hai mangiato e poi ci batte, con te e tanto, con te e tutti, c'è arrivederci, così gli dico io. E cosa ti chiesto, ho venuto a trappare la Roma, poi ci batte. Lo so, io non so cosa fa. Cioè, l'ho tenuto un anno, io facevo mangiare cose sane, ecco, con poco sale, mangiava spesso e volentieri il minestrone, la pasta pesata, e poi, come si dice, non gliene frega niente. Si spaventa, però non gliene frega più niente. Vuol dire borricchia, la ricchia, le beni dopo già ce le mette lì, cosa ci puoi fare? Se non la vuoi intendere non puoi fare nulla, noi la bibbia a forza, tu gettogliela e poi quello gli dipende da lì. Ognuno si comanda da solo della vita sua, vuol dire, vuol fare così, la gara fa così. Tu quando ci sei gliela fai, quando non ci sei, sì, tanto dorme ve la fai, se non se l'ha fatta, sai. Io ho orario fisso per farmela, non è ovvi. Io, se devo cenare per esempio alle 10 che devo aspettare gente, mica me la posso all'urto, a ridurre, me la faccio alle 10 meno 20, meno un quarto, capito? Quanto ne fai la notte tu? Con la glicemia, anche quando prima è coricarmi, se ce l'ho alta, massimo me ne faccio 15, se ce l'ho come l'altra volta, la lagrida abbassata, 395, metti di a poco di me, un cerchione in capo, attuntulato ed era quello, e me ne ho fatto 15, me ne ho fatto, 15 cc. Per la notte, quella è lenta, no? Sì, per la notte. E qualche volta pure ho sbagliato, mi faccio pigliare la ghida di la notte, ho pigliato chissà che posso dire. e dico, beh, la mamma me l'ha già fatta la chiesa e non me l'ha puttinita. E mi si cocco, molte volte sbaglio, no? Molte volte, qualche volta quando sto pensando all'altro, piglio una bena, si boccola che mi la voce, quando non lo dico, capita, ti sbagliato, e vabbè, già funziona come attrice. Solo quella là è più veloce e l'altra è più lenta, quella della notte, capito? Siete proprio, guarda, da prendere e sbattere al muro. Capita, ma noi che andiamo da me, mi dovrà la siringa mi posso risalire la notte, e così crepo, pazienza, mi tengo i semaggi fatti e buco, poi domani controllo la glicemia ed è praticamente la stessa cosa, solo quella là fa effetto prima, si chiama nuova rapida, quella là, quella arancione, e l'altra è verde la penna, verde il tappo blu, quella è della notte. Ma cosa che fine ha fatto Luca Focaccina? Cosa? Luca Focaccina che fine ha fatto? Chi c'è già ti segni un fuoco? Beh, lo vengo dai nonni, vengo io allo fumo, la fiamma, da qui io lo vedo. Poi se mi prendo il binocolo lo vedo proprio più vicino. Vabbè. Non so se domani ha messo acqua. Sino a mercoledì si fa tutto il tempo balordo così. Ma infatti io mi voglio andare a tagliare un po' d'erba, ma se ti ho bagnato ho detto no, non è tagliare che ti fai a beffa. Quando c'è una di non piove si può fare la taglia. No, non fate l'erba bagnata, io ti va a beffa. Oh, a me Rudy, che voi ce l'ha già fatta in campagna. Sta beffa di bagnare, i pantaloni driccia a driccia, lì si vale. E la vera più erba nata lì si vale che in terra. Ti fai troppa beffa, ti sporchi troppo. È bel fuoco acceso là, è Luca. E Bobo, la TV guardando la stai. Bobo! Ehi, passato, Bobui! Ciao Mari! Ciao Bitto sì! E che facendo c'è? Ehi, buonasera comunque! E beh, come fa? Che vecchietti! Attaccato la pinta grazia, allora si la fa pinta, non la fini più! Mettore più fino a farvi dente, gatta. Scusa, non va nessuno, c'ho il discorso con Luca e chiacchieriamo. Tu se volevi chiacchierare, breccavi e ti avremmo aperto la porta con la finestra. Ah, beh, mi ha risposto la domanda, se ti pigliare a fare il cronista, gatta, boh. È già fatta, ha detto finale troppo personale. Se no mi ha fatto pure un cronista. A chi Maru è Luca a fare un cronista? Sì, Gio Maria. Buonasera Gio Maria. Non lo so, ti vado in traedo a fare un cronista. Lì alla Serie A. No Gio Maria. Non ho capito lui, ero un po' disattento. Ho detto, fagli fare il cronista alla Serie A. Eia! E lui c'è anche Luca il Bello. Dov'è? C'è quello brutto. E comincia a essere davvero parole. Perché ci sogni se lo dici troppo bello, eh? Sei convinto, eh? È meglio che sia che si convincia, capito? Beva. Oh Lu! La nipote sta dicendo che l'ha già mandato a... l'ha mandato in continente a giustarglielo. Vabbè, io non c'è problema, no, tranquillo. Come mai il continente non qua? C'erano due cose che non mi lamento, questa la consapevole di fa. Anche la scheda della madre, qualcosa del genere, più c'è l'altra cosa, capito? Un benedina a psimichi. Pa contrapiro. Che la scheda madre. Questa è la barca di quattrini, quel telefonino, Caccia, cosa mi dirà che sul telefonino, forse è il paese che se la manda dagli ivi. Giovanni. costano... ok, vabbè. Io pensavo che la mia ancora, invece non si va, sai già il pirito. Ebbè, grazie! Ehi, mio, c'è sul computer, un po' ieri, un po' oggi, perché era sempre fermo. Infatti, rimani, è stato un poco a caricare tutto quanto. E oggi già è andato meglio, là. Poi c'era anche la batteria. E pure ho messo cosa ho preso, ma non mi metto in eccolo qua, poi ho messo delle resistenze che mi servono. Ah, già ordinato là il barbecue? No, ancora no, lo devo ordinare, ancora no. Già ce l'ho qua, dove cavolo ci uscite? Riesci a vedere? No. Qui sotto, nell'altra pagina c'è, cioè. No, lo devo ordinare, ancora non l'ho ordinato, e intanto è già confermato, ce l'ho già nel carrello. Va bene, Flippero, mi dici giuro, procedi con l'ordine. Calma, il sangue è freddo. Quando voglio io glielo mando. Adesso l'ho bloccato, non me l'ho salvato. E nel carrello. Poi sono andato in sud da bacchino, nessuno. Non funzionano la PayPal, Luca, Flipper. Neanche lì a Sant'Orsola. Forse da lunedì. Luca. Oh, dimmi. A Luca Flipper, lei sono andata a ricaricare la PayPal al tabacchino qua e mi ha detto che non funziona, dipende da Eddie. Sono andato lì a Sant'Orsola e mi ha detto la stessa cosa. Boh, deve essere qualche cosa di danno e sono a consenti per mettere i soldi nella ricarica della carta per portare ad acquistare, no? Però non funziona. Allora c'è qualche cosa da Eddie, perché l'altra volta l'ha fatto anche a Luca, così lì a Santa Maria di Pisa. Siamo scesi giù e nemmeno. La stessa cosa mi ha detto a me, se non ne hanno colpa loro, mi ha detto. Non dipende da noi, dipende da loro. Adesso vediamo questa settimana, lunedì o martedì, così mi ha detto. Dai, dice, capita, uno si deve comprarsi una cosa, insomma, non funziona un cavolo qua. E che c'ho la comodità. E poi non funziona. Anche se non mi tocca andare, poi ci devo fare un bonifico, capito? Ma è una cazza cosa vi lascio. Ce l'ho a due passi qua, Non lo so. E tu ce l'hai quella carta, lui? Allora, aspetta, Giumari. Ho capito. E beh, ce l'ho già un pezzo come l'ordini. L'ordine tramite il computer, confermo l'ordine, vado al tabacchino e faccio la ricarica. Vedi come fai la ricarica, si prelevano i soldi e ti mandano l'email che è a posto, ti mandano la conferma che hanno incassato l'ordine e ti mandano la data quando ti arriva il pacco, capito? Ti esce nell'email, anche sul telefonino. Ti dice quando arrivi, no, che già lo sai già, perché ti dice 3-4 giorni, però poi ti danno la conferma che l'ordine è ok, chi sarebbe caduto di là, e ti arriva tutto il giorno. Ho capito. Bene. Vediamo un po'. Flippero! Allora, Giovanni, io ho la post pay registrata PayPal. Ho capito. Poi magari è usato parecchia roba, così che è chiaro che dovete avere queste schede, così è lui. Ho capito. Che che dovete essere ci ha fatto queste schede poi così è fatto queste schede. Ehi, che ti hai fatto la carta, la ricarica posta a PMI, perché tu la utilizzi, quello che sta dicendo. Io quella me la devo fare così almeno, se non funziona la PayPal, lo posso con posta a PMI, capito? Io quella non ce l'ho, me la devo fare, mi appena andare in Burti, se vorrei su Itaghita, me la faccio fare. Perché se non funziona la PayPal, l'ordino con quella. Eia, eia, no, va bene, va bene. Riprendilo. Eia. Vabbè, grazie, te lo sconsiglio comunque con la PostePay. Già, me l'hanno detto altri, e anche l'altro giorno ho visto sul computer. Che a uno l'hanno imbottito, con PostePay. Strano però, come fanno a fregarti, non ho capito. E qual è la cosa più sicura? Se non ti arriva il pacco, ti rimborsano i soldi. Tu non ti arrivi, andano da macchina e ti ne vuoi di là, è come una carta di credito. Puoi anche prelevare i soldi che hai messo, che hai caricato. So, per dire, non ti fai l'ordine, non ti arriva il pacco, tale giorno, li chiami, come mai non è arrivato, andi, allo da macchina e ti ne ritiri di là. Ho capito. Vai, vai. Te li rimborsano, c'è un'assicurazione, capito? E poi quando, tutte le volte gli avversi che hai comprato, per dire io bisogno una cosa da ruo, chi ci vorrà girare? Vado no, è verso 130 euro, devo pagare 132 euro, 2 euro di commissione si prendono, capito? Il tabacchino, però in quelle 2 euro c'è incluso l'assicurazione, capito? Se tu non ricevi l'ubacco, anche che dati nel ritiro di dinari, ti dati di dinari che hai versato 130 euro. Ma con PayPal? Sì, con PayPal, c'ho il codice PIN, digito il codice PIN, di là mi torna i soldi. Vabbè, mica te li danno subito, devono fare le verifiche, no? Capito. Se non ti arriva al pacco, loro devono fare le verifiche, non te li danno subito. Vedi, con chi ti richiede, allora se ti capita magari su Facebook, magari qualcuno sta guardando un esempio, una moto Sega, e magari vedi che il prezzo è buono, no? E ti chiede il pagamento post P, non accettare mai che ti butti di là. A me è capitato un tipo, non so, non mi ricordo per che cosa, ho detto io. Ho anticipato subito, ho detto, io pago con PayPal, no, ricevo solo pagamenti post pay. Vai, caga, vai. No, quello già l'ho sentito anche io, però con post pay devi comprare solamente in negozi, non da privati. Così sei sicuro, se compri da privati ti buttini, capita? Che ci bigliettini non ti mandano il rubacco. Invece con i negozi ti mandano in baffozza l'articolo che hai preso, capito? Con i privati non conviene posti più. Quello già lo so che ti butti. Solo con PayPal lo puoi fare, anche se ti butti ti rimborsano i ridini a PayPal. Sì, però vabbè, con posti più non conviene. Magari, cosa ne so, anche se fai un acquisto su internet, no? E magari quello là ha messo dei dati non suoi, i soldi vanno a finire, cioè praticamente arrivano subito questi soldi e se ne ribocano subito, invece con un PayPal li tengono lì, come stava spiegando Luca, in attesa che io avrei fatto l'acquisto, quei soldi rimangono fermi. Poi una volta che io non so, non mi ricordo, me lo stava spiegando ma non mi ricordo bene cosa mi ha detto, comunque vabbè, nel caso che coloro non mi rispedisce il pacco, cioè intervengono loro. Allora, quando mi arriva a me qualsiasi articolo che ho comprato e ho pagato con PostePay, il corriere mi fa firmare, la firma digitale mi fa mettere. Se no pacco così, non te ne daga, e anche il postino, perché l'ultimo pacchetto mi è arrivato avanti ieri e me l'ha portato per posta. mi ha suonato il citofono e ho firmato lo stesso, firma digitale. Se non firmi il postino non te ne consegna, lo ritorna indietro e ti mette l'avviso nella cassetta, capito? Sì, però come si dice, io non me ne frega, io con PostePay non compro più. No, con PostePay puoi solo comprare da negozi, ad a privati non conviene pagare. A privati io l'altra notte, guardi, avanti, no, ieri notte, ho chiamato questo tipo qua che fa cose lui artigianalmente, questo è di un paesello vicino a Napoli, e mi ha detto, gli ho detto io, però il pagamento te lo faccio a contrassegno, quando mi arriva il pacco ti pago. E mi ha detto, no, posso pelo mi fa un bonifico, e l'ha detto, no, allora tu non vuoi lavorare, se tu vuoi lavorare che io ti vuoi, che se vuoi che ti copri la cosa, mi fa il pagamento a contrassegno, quando arriva il pacco ti pago, e prima di pagarti me lo apro pure il pacco, così l'ha detto. Se è così va bene, se no te ne giro. Servi. Beh, certo. E mi ha mandato l'indirizzo sul telefonino con il negozio dell'azienda e mi ha scritto che già mi accetta anche la PayPal. E allora gli ho scritto, come mettono in funzione la PayPal, non ti preoccupare, adesso c'ho il sito, c'è un negozietto questo, le fa lavoro artigianalmente. E cosa di caccia, capito, questa roba qua. Appena mettono a posto la PayPal, mi prendo quello che devo prendere, però pago con la PayPal, non mi butta a me. Bella, bisogna pagare con la PayPal, no con PostePay. Avanti Giovanni. Ok, io già non ho di quelle preoccupazioni, no, sinceramente non saprei dove entrare, per cui lascio penso agli altri. E faccio ogni volta che mi iscrivo a qualche cosa, o mio figlio Luca, loro già li sanno queste cose. Adesso da quella ditta cinese Swishy, dove compra anche lui, so che siete 8 articoli e mi arrivano quasi tutti a maggio, mi arrivano, il primo il 10, poi il 18, poi il 15, il 19, ogni anno mi arrivi un pezzo. O tu pensi mi devi arrivi a maggio, all'altro mese, e l'ho comprati così, perché lì te lo mandano dopo 2 mesi, 1 mese e mezzo, capito, quello che compri. Ma quello lo ritardano perché è lontano me, catta, non è a Platamona, no. Quelle nazioni sono lontano me. E andare via noi si passa il tempo, capito? Ma siccome c'è il tracciato del corriere, io guardo il tracciato del corriere, sino adesso sono arrivati all'ultimo corriere in Cina, e sono ancora in Cina, perché hanno fatto 3 o 4 passaggi da trasportatore a trasportatore, capito? Da ditta a ditta. Io ho ordinato una questione, caccia, ci ha messo, mi sembra, 13 giorni. No, questo te lo dice, c'è già scritto, come cosa mi hai scritto 2 mesi? Però molte volte arriva anche, dipende dal posto della Cina, dove, perché non è solo da un posto, da una fabbrica, dipende da dove è più vicino, capito? Ti può arrivi pure in 1 mese e mezzo la roba, anche in 1 mese, dipende dal punto da dove parte. Poi gli ho ordinato un altro e 2 mesi e più. Ah, pensavo che fosse già una fregatura, invece no, ci ha messo 2 mesi e più. No, questo dove compro io, anche dove compra Luca, non te ne vado e butti giù, no, ma a me tutto quello che ho sempre ordinato mi è arrivato, anche la minima cassata che ho ordinato ti arriva lo stesso, però ci vuole sempre quel tempo, capito? E devo è tutto pagato, ce l'ho scritto nel telefonino, nel computer, ci sono le date quando mi arrivano, ti fanno sapere se per caso fa del ritardo, tutto. Vabbè, di arrivare arriva, ma ritardo, l'ho capito, perché è lontano e cazzo non è vicino. Bisogna anche vedere da dove, da quel posto, da quale nazione, ma da quel paese che tu l'acquisti, capito? Perché sono paesi, un secondo, l'ultimo di Chirri di Sucriccio, capito? Allora dai, mi sentani. Perché un articolo magari lo fanno in Cina proprio, a Hong Kong per dire. L'altro lo fanno in Cina, però è un'altra città della Cina, la Cina è enorme. E sono tante aziende sono, non è che fa tutta un'azienda, tutta una fabbrica. Da ogni fabbrica quello che si prende, le cose spediscono, capite? E poi già arrivi, non c'è problema, Baiz. Ok, infatti. Va bene, dai. Vi saluto, a domani se coincide, buon proseguimento, buona cena. Grazie, a saluto di casa. Idem a Luca, ciao Lu. Riprendi tu, io chiudo, dai. A domani. Ok, ciao Gio Maria, buona cena, buon giorno. Buona cena, a domani. Dai Lu, saluta. Sei rilasciato da me che ripigli tu. Ciao Gio Maria, salutoni. Buona cena, saluta la tua moglie, ciao, alla prossima. Ok, ciao. Guarda, Amazon mi ha scritto lui. Graziano, approfitta di questa offerta, buono sconto di 5 euro. Se acquisti 50 euro in buoni, regala il piacere della scelta per acquistare milioni di prodotti su Amazon.it. Un altro giorno, la scritto. Chi ti ha mandato? Trasportato da Amazzoli, Amazon.it. Ah, Amazon. E io ci compro spesso lì, anche su eBay. Qual è il canale 5, ragazzi? Quel maresciallo dei carabinieri che l'ha ammazzato. Quel cornuto l'ha ammazzato, 70 anni, un ex carcerato, così, delinquenti. Ce l'ho vista anche la fotografia sul telefonino di Gisù Bavaraccio. Era un pezzo di pane in Chiesa Baesi, suo maresciallo. E aveva chiesto, l'aveva fatta a pezzi, si l'aveva cucita, la vostra zetica si l'aveva cucita. A chi ho un in galera. Ha sparato a quello là per prima del morto, poi ha sparato il collega e l'ha ferito, meno male. Miserabile, schifoso, in giro con la pittura in busciacca, la te l'immagini. Imbecille, vado a dare i documenti, e cosa cazzerà di menni, buh! Che si sta avvicinando, buh! Roba matti qua, per carità, sono stati un carabinieri, gli hanno stato sempre con la fondina a becca, al primo corso che abbia visto l'abbia impallinato in capo, da buh, che mi pigliavo, oh, delinquenti, già. Va bene, lui, adesso chiudo, là. Ce la sentiamo domani. Buona cena, buon tutto. Saluta Marina, anche da parte di Paoletta, che prende il cruciferma. Ciao, bacioli ai bambini, ai cagnolini. Ciao, Luca Flipper. A te te l'ho riciclato dalla graviglia. Ciao, circolare chi è in ascolto. Vai, lui. Ciao, grazie, contraccambiato, saluta Paoletta anche da parte di Marina, saluta Graziano. Ciao, grazie, ciao Paoletta. Ciao. Ciao Marina, di la verità, Marina, se non ci sono io in questa ruota a parlare, sono tutti morti. Adesso ti ha sentito, grazie. Diglielo tu quello che ti ho detto, lo. Torre non c'è, chi dà su nove, chi dà su e Magnini, chi dà su bella radio. E poi cosa c'entro io? No, ha detto che se non ci sono io a parlare, no, è un morto lui. Ah, ma questo. Tu hai detto che stava dicendo a me, A te stava dicendo. A te stavo dicendo, Marina, che mi ha... Perché stavo ascoltando e sentiva sempre a me parlando e a te. Eia, andava, vabbè dai, ci sentiamo domani. Io grazie, comunque uno di quelle cose l'ho regalato a un parente, dai. che ne aveva bisogno. Ho detto, arrangiati, fatti la scansione, boom, metti i canali. Ah, ne è fatto bene, non c'è di buttare, regalala a qualcun altro se non lo usi tu. Infatti li ho regalati, capito. Babbo, a domani, grazie, ciao. Ehi, ciao, a domani. Antonio. Avanti, chi è? Chi c'è?